Radio Popolare vi ha presentato La Caccia. Caccia l'ideologico quotidiano. Una trasmissione a cura di Felice Accame e Carlo Oliva. Grazie a tutti voi per la cortese attenzione, grazie a Ezio De Gradi per la regia. L'appuntamento rimane confermato per domenica prossima, la medesima ora. Buona giornata. Come sono confermati gli appuntamenti per la replica mercoledì notte, dopo l'ultima edizione del notiziario. Mi hanno raccomandato di non dire le news perché non sta bene, e i testi si trovano regolarmente sul sito. A risentirci.